Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Vi può capitare di accendere la TV o aprire un giornale e gridare: ma questa storia l'ho già sentita, anche di fronte a una notizia nuova di zecca. Può darsi. I fatti che si verificano nel mondo più o meno sono sempre gli stessi, l'uomo è sempre lo stesso, e dunque anche le notizie tendono a ripetersi. La storia è ciclica. Questo però non giustifica il fatto che la politica, ad intervalli più o meno regolari, dia pessima mostra di sé con i soliti scandali all'italiana. Corruzione a vari livelli, uso fantasioso di soldi pubblici, sprechi e vere e proprie illegalità. Certo, non vogliamo fare del semplice qualunquismo, non si può urlare tutto un magna magna e poi voltarsi dall'altra parte. E bisogna rispettare i moltissimi che vedono nella politica la più alta forma di carità, come la descriveva Paolo VI, e si mettono onestamente e con energia al servizio del bene comune. Però c'è un limite a tutto. I recenti casi Lazio e Lombardia hanno fatto letteralmente imbestialire milioni di italiani. E non tanto per le spese pazze fatte con soldi pubblici, soldi nostri, ma per la spregiudicatezza, il cinismo, oserei addirittura dire l'assenza totale di moralità che trasuda da vicende come queste. Non voglio parlare di festini, di auto blu, di bustarelle, di connivenze con la criminalità organizzata. Voglio domandarmi solamente perché si è arrivati a tanto. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Autorità responsabile significa anche autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù che favoriscono la pratica del potere con spirito di servizio, pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione. Un'autorità esercitata da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio operare il bene comune e non il prestigio o l'acquisizione di vantaggi personali. Tra le deformazioni del sistema democratico, la corruzione politica è una delle più gravi perché tradisce al tempo stesso i principi della morale e le norme della giustizia sociale. Compromette il corretto funzionamento dello Stato, influendo negativamente sul rapporto tra governanti e governati. Introduce una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, causando una progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e dei suoi rappresentanti, con il conseguente indebolimento delle istituzioni. Abbiamo con noi in collegamento telefonico l'onorevole Antonio De Poli dell'UDC. Grazie per essere con noi, onorevole. Grazie a voi. Ormai siamo abituati, perché puntualmente ad intervalli più o meno regolari, sempre più brevi per la verità nell'ultimo periodo, emergono scandali come quello del caso Lazio o il caso Lombardia. Secondo lei è proprio inevitabile che questo avvenga? E perché, nonostante le prese di posizione e le promesse di pulizia, tutto sembra rimanere uguale, anzi a volte anche peggiorare? Ma io credo che quello che abbiamo visto purtroppo in queste ultime settimane sia un degrado di una parte della politica che fa male alla politica, quindi a tutte invece le centinaia e migliaia di amministratori, di persone che credono ancora alla serietà e che lavorano per la trasparenza e il bene dei cittadini. Chi fa queste cose, che va in questi percorsi, è sicuramente da condannare da parte di tutti i cittadini, ma ancora di più da parte di noi che siamo nella politica, perché se crediamo al bene pubblico, una cosa del genere fa sì che tutta la politica sia marcia. Invece non è così, ci sono persone serie, corrette, trasparenti, e persone che purtroppo non lo sono. Io credo che su questo le regole, ma ci sono forse delle regole che non ci sono, si devono metterle, ci devono essere i controlli in modo particolare sui bilanci con tutte le società di revisione, quindi con il controllo anche da parte della Corte dei Conti, tutte le valutazioni, non ci devono essere soldi al di fuori di quelli che sono nettamente rendicontati, trasparenti, eccetera, in maniera tale che non ci sia la possibilità, o comunque che rimanga un pochissimo parte la possibilità, ma meglio che non ci sia in modo particolare nessuna possibilità di poter vedere quello che abbiamo visto in modo particolare a partire dal Lazio. Sì, a parte chiaramente alcuni provvedimenti che dovranno essere presi proprio per pulire e per impedire di fatto questi comportamenti, non c'è anche forse un problema di selezione a monte? C'è un problema di selezione della classe politica? Si possono ripensare i criteri in qualche modo? Sono perfettamente d'accordo che la classe politica debba avere dei percorsi di selezione, e difatti noi siamo per la modifica della legge elettorale che riporti la scelta al cittadino e non la scelta da parte chiaramente del leader di turno, primo aspetto. Secondo aspetto, ci devono, come era forse qualche anno fa, qualche decennio fa, la politica, uno deve aver fatto almeno l'amministratore in un comune, l'amministratore locale deve capire cosa significa la politica nel territorio, deve capire cosa significano anche i piccoli grandi problemi di tutti i giorni delle persone. Ci deve essere un codice etico dove ogni partito deve averlo, o meglio ancora deve esserci un codice etico per qualsiasi che appartiene o entra a far parte di una pubblica amministrazione. Chi non ha questi aspetti di trasparenza, di chiarezza della persona, della propria famiglia, dei propri bilanci, eccetera, non, chiaramente, per quello che mi riguarda, non può entrare in politica. Credo che queste siano alcune considerazioni che ci dobbiamo interrogare. Forse una volta i partiti stessi erano in grado di trovare delle regole, oggi purtroppo non ci sono così ferre, e questo porta alle cose che vediamo purtroppo in questi ultimi giorni. Io credo che se invece riusciamo a farle e a portarle in modo preciso all'interno delle pubbliche amministrazioni, forse tante di quelle cose che abbiamo visto, tante persone che hanno preso strade poco chiare, non ci sarebbero. Sì, forse ogni tanto si denigra la Prima Repubblica, però lei ricordava questi partiti, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, insomma, che avevano un forte controllo interno, per cui cose di questo tipo magari non capitavano con così frequenza. Ma abbiamo visto chi usciva da quei partiti nella storia, intanto era fuori, non è che il giorno dopo lo trovavamo da un'altra parte. La migrazione di politici da un partito all'altro adesso, secondo la convenienza, è tanto un primo atto di degrado della politica. Il secondo, una volta difficilmente ci poteva essere all'interno della stessa struttura moglie, figli, eccetera, eccetera. Terza cosa, le persone non corrette o i delinquenti c'erano anche una volta, perché, per carità, non c'è dubbio in merito, però non con il degrado personale, perché oggi sono tutti con aspetti personali, cioè hanno rubato per se stessi, non per un partito, non che la cosa sia diversa, sono tutte e due da condannare, ma hanno due aspetti diversi. Io credo che rispetto a questo non sia ammissibile quello che vediamo in questi giorni, cioè il problema del Lazio, il famoso Batman del Lazio, chiunque esso sia, voglio dire, ha denigrato ancora peggio di altri tutto il mondo politico, e credo che questo sia da prendere in considerazione in maniera precisa e seria. Non possiamo far finta di nulla, e questo la politica a tutti i livelli si deve interrogare. Grazie onorevole, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Ho saputo dirti no, non sai che storia c'era. Dove Dopo dove vai? Dopo dove vai? Stasera. Stasera. Sai che non lo so. Sai che non lo so. Bambina. Bambina. Sento che te no, non sei la prima. E di certo no, non sei la più serena. Quello che ti do stasera è questa canzone. Onesta e sincera, onesta e sincera. Certo che potevo, sai, approfittare di te. Ma dopo come facevo a fare senza sé? Meglio che rimani, meglio che rimani a casa, a casa. Meglio che non esci, meglio che non esci stasera, stasera. Che la notte non è più sicura e non è nemmeno più sincera. Sera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità è che non so più cos'è. Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con l'onorevole Antonio De Poli dell'UDC. Grazie per essere con noi, onorevole. Grazie a voi, come sempre. Cioè, a parte i comportamenti personali sbagliati, c'è qualche ragione o meccanismo interno alle istituzioni, organico ad esso, che favorisce il sorgere di questi fenomeni? Ma io credo che ci siano degli aspetti che sono completamente saltati, che una volta c'erano delle scuole di formazione, la scuola di formazione preparava la persona che si avvicinava anche alla politica a capire, a vedere ed avere anche degli obiettivi chiari. Io credo che la società stessa negli ultimi anni ha avuto dei maestri di cui ognuno di voi può pensare quali possono essere, che non hanno dato un'etica della vita personale, della vita politica e pubblica seria. Una volta questo in qualche modo c'era, sono saltati i parametri della società. Saltando i parametri della società, tutti pensano di andare lì solo per far soldi, per fare i propri interessi. E credo che questo sia un'idea abbastanza diffusa all'interno della comunità. Uno serio dice vieni in politica, no non me ne frega niente, non entro nel merito, non voglio entrare nella politica. Qualcuno che pensa di arricchirsi o raggiungere degli obiettivi vuole entrare nella politica. Io credo che questa cosa la dobbiamo completamente cambiare, ci devono essere ritornare alle scuole di formazione, tra l'altro voi la continuate a fare da anni, l'avete mantenuta anche nei tempi più difficili e continuate a fare, questo è un segno importante per i giovani e non per continuare a crescere rispetto a dei valori e dei principi e degli obiettivi e dei fatti di trasparenza. Noi come UDC, anche Padovana e Veneta, la stiamo facendo ripartendo da qualche anno proprio per la scuola di formazione, dando anche dei valori etici alla politica, non solo gli aspetti formali dell'amministrare. Ecco, io credo che bisogna recuperare con forza la dignità della persona, la dignità umana e la serietà di una persona, ancor di più nel momento in cui entra a far parte di una pubblica amministrazione, quindi nel bene comune, non in altre cose. Sì, lei prima ricordava come magari in Italia in questi anni che, diciamo, molti si sono avvicinati alla politica con premesse molto diverse da esercitare la più alta forma di carità, come la descriveva Paolo VI. In effetti la vedo anche e soprattutto nel mondo anglosassone: il vertice della società non è il politico ma è il manager, è l'inventore vincente alla Steve Jobs. In Italia forse la piramide è il politico, è d'accordo con me? Cioè forse è anche un equivoco, infatti il ministro è quello che serve, insomma. Io credo che sia forse un grande equivoco questo. Io sono sempre dell'idea che dobbiamo scindere quello che sono gli aspetti dell'impresa, che ci vuole, con delle regole anche lì, perché l'impresa non può essere non etica, certo, rispetto ai percorsi dei lavoratori, delle persone, quello che fa. Qui entriamo in un campo molto discutibile, però almeno come idea credo che questo sia il percorso. La politica e chi la rappresenta non può essere un'impresa. Il bene comune non è il profitto in politica, deve essere un'altra cosa. Se noi credo che abbiamo messo insieme due cose, però siamo caduti nell'aspetto dell'impresa uguale profitto, non nell'impresa uguale lavoro, uguale crescita, uguale altri tipi di considerazione. Ecco, io credo che questo è stato il grande problema degli ultimi 20 anni della politica italiana. Forse molti hanno pensato che politica uguale impresa, impresa uguale profitto, sono lì per raggiungere degli obiettivi fini a se stessi, per me e per alcuni, e non invece però, politica vuol dire bene comune, vuol dire attenzione alle persone, vuol dire carità, vuol dire principio di sussidiarietà, vuol dire principio di solidarietà, vuol dire far crescere un paese, vuol dire aiutare le persone. Cioè, ecco, io credo che questo sia la differenza di visione, che è completamente agli opposti uno e l'altro, di cui almeno io credo in questa seconda ipotesi, non è la prima. Ecco, in breve, tralasciando insomma quelli che sono entrati in politica per secondi fini, e invece teniamo quelli che sono entrati in politica per esercitare questa alta forma di carità, come facciamo a far sì che più giovani, più persone moralmente adeguate e preparate, perché per fare politica bisogna anche essere preparati, a differenza di quello che diceva un consigliere regionale di una regione del nord, come si può fare anche perché giovani cattolici entrino in politica molto brevemente? Ma io credo che bisogna riprendere il merito delle persone attraverso chi è capace, chi ha idee, chi ha progetto e qualità, e non chiaramente perché è amico dell'amico o per altri motivi. Quindi partendo da questo presupposto, avendo anche, come dicevo prima, un codice etico di percorso per la politica, e far sì che la politica sia ancora una volta ritorni ad essere la politica della gente, in mezzo tra la gente e il territorio, quindi le scelte non devono farli leader di turno, ma chiaramente persone. Con queste tre regole credo che riusciamo ad avere e a ritornare, a riprendere con forza la dignità che la politica deve avere rispetto ai propri cittadini, e forse potremmo ancora dire la politica è il bene comune, è un modo di fare del bene e non un'altra cosa. La ringrazio infinitamente, lo auspichiamo tutti, grazie ancora del tempo che ci ha concesso. Grazie a voi per la gentilezza e la possibilità di poter essere con voi oggi. Ricordiamo l'appuntamento di sabato 3 novembre nell'Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, dalle 9.30 alle 16. L'Azione Cattolica, ACLI, AGESCI, CSI, noi, l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro e la Fondazione Lanza terranno la giornata Cittadini di questo mondo, Open Field 2012. Interverranno nella mattinata Monsignor Roberto Tommasi, il preside della Facoltà Teologica, il Vescovo di Padova, Monsignor Antonio Mattiazzo, ci sarà la prolusione della teologa Serena Noceti, e in dialogo con il filosofo Luigi Alici. Interverrà anche lo storico ed editorialista Ernesto Galli della Loggia. Nel pomeriggio interverranno Giovanni Bachelet, parlamentare, e Lucia Fronza Crepaz, già parlamentare. Modererà gli incontri Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del Popolo. Maggiori informazioni su www.acipadova.it e www.pastoralesociale.diocesipadova.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi è alla settimana prossima, potete riascoltarci in podcast sul sito di Blu Radio Veneto o potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Grazie dell'ascolto e alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.